ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi. Albeggiava appena quando il generale comparve nel nostro dormitorio e ci svegliò. Balzai su per il primo, sebbene avessi maggior dose di sonno che non quando mi ero sdraiato sul mio povero giaciglio, e a gran fatica, fregandomi gli occhi, ne sgombrai quel che ci restava della cimmeria nebbia. Dove alloggiava Garibaldi, poté accadere facilmente che mancasse il pane, il vino, la carne ed anco il sale, ma non accadde mai che mancasse il caffè. Quell'uomo, solito a vivere con 3 o 4 picce di fichi secchi e con una meluzza acerba o con pochi chicchi di formentone, avrebbe sofferto le pene atroci d'inferno se gli fosse mancata una tazza di caffè. Sapendo questo, era sempre nostra cura il provvedergli caffè, anche se per averlo fosse stato necessario il correre a cercarlo in mezzo al fuoco o qualche miglio in mezzo all'acqua. Così, nel partire da Genova, l'infaticabile Pietro Bovi, gran trovarobe del piccolo esercito e degno d'esser tale in un esercito sterminato, aveva tratto seco a bordo quanto era indispensabile perché Garibaldi avesse ogni mattina ed anche ogni sera un'eccellente dose di caffè fatto lì per lì, magari nel bosco o nella deserta pianura. Venne dunque in tavola il caffè e ce ne fu per tutti. Il generale, tra un sorso e l'altro, dimandò a Sirtori e a Tur se fossero stati adempiti puntualmente certi suoi ordini e lasciò intendere che voleva avviarsi quanto prima verso Salemi, piccola città che sta su in Excelsis a cavallo alla strada che conduce a Palermo. In quel luogo egli sperava raggranellare qualcuno di quegli innumerevoli insorti che i giornali di Genova, di Lombardia e di Torino avevano fatto scaturire a migliaia dalle sicule glebe, ma che in verità non avevano oltrepassato di molto il migliaio ed ora si riducevano a poche decine di fuggiaschi erranti per le montagne. S'era dileguato in un baleno il roseo bagliore delle magnifiche promesse. Le illusioni se l'era portate il vento e non restava in faccia a noi se non la nuda e cruda realtà. Ma oramai eravamo nel ballo e bisognava ballare e raccomandarsi alle sante mani e alle santissime baionette e pregare l'Altissimo che ci serbasse intatto l'uomo, mancando il quale saremmo divenuti un branco di pecore smarrite o giù di lì. Non rida chi mi legge, perché spesso avvenne purtroppo che un uomo solo avesse in sé tanto cuore, tanto senno e avesse tanta fortuna dalla sua da esser necessario non solo a 1000, ma anche a 100.000, nel modo stesso che necessario è alla terra il sole che la scalda e la feconda. Ogni via di scampo era chiusa dall'altra parte del mare. Il dado era stato tratto e Garibaldi aveva detto con ragione d'aver bruciato le sue navi. Credettero molti, e lo credette anch'io, sino alla mattina del dì 12 di maggio, che il nostro condottiero, sbarcato nell'isola, avesse in animo di intraprendere su per le montagne quella guerra, guerreggiata o piccola guerra, come si chiama oggi, che stanca alla lunga gli eserciti regolari ed è opportunissima a sollevare i popoli che hanno voglia di menar busse a chi tien loro i piedi sul collo. Nessuno avrebbe sognato mai che egli si mettesse dritto sulla via di Palermo, con quell'audacia con cui vi si mise e che parve tanto più inaspettata in quanto le cose di Sicilia volgevano contrarissime alla sua aspettazione. Conosciuto dunque il proposito che aveva fisso il generale, capimmo a volo che cominciava per noi un viaggio pedestre assai più duro di quello marittimo, che fu al paragone un viaggio di divertimento. E vedendo vicino a me il Lamasa, non seppi fare a meno di dirgli: «Caro amico, il generale si vuol mettere di buzzo buono al lavoro, ma se i tuoi siciliani ci faranno dappertutto il viso che ci han fatto qui a Marsala, non ci resta se non pregare il Signore che ci scampi e liberi». E il Lamasa a me: «Aspetta a dire, tu vedrai fra 2 giorni o 3 che io non fui bugiardo, e che i siciliani d'oggi son degni figli di coloro che, tanti secoli fa, suonarono a vespro. I marsalesi han paura, e non hanno tutti torti, e si sanno che noi non dobbiamo fermarci qui, e che partiti noi, i borbonici sbarcheranno e torneranno padroni della città. Può darsi che tu abbia ragione, soggiunsi. Ma dove son mai quelle falange di insorti che magnificavi tanto in Genova? Dove sono le città ribellate? La mia domanda era una di quelle che stringono i panni addosso. Ma il Lamasa non si smarrì. La rivolta fu spenta, egli disse, ma vedrai che a riaccenderla 100 volte maggiore basta un fiammifero. Dio ti faccia profeta, esclamai. Però io sono devotissima a San Tommaso Apostolo e non credo che a quel che vedo. Ma in fin dei conti noi siamo nel ballo e dobbiamo ballare, e balleremo sinché avremo vita. Verso le 6 cominciarono i preparativi per mettersi in marcia. Si pigliò, per forza o per amore, qualche cavallo, si levò dalle rimesse dei signori qualche carrozza e si caricò sui barrocci un po' di pane. Mentre le compagnie dei volontari si riunivano sulle piazze, Garibaldi mi chiamò e mi dette ordine che andassi dal console inglese e lo pregassi in suo nome di pigliare sotto la sua santa e degna custodia certi nostri malati, i quali non avrebbero potuto seguirci nella marcia. Verso le 7, mentre la squadra napoletana riappariva di bel nuovo dinanzi a Marsala, i 1000 stavano schierati in buon ordine nel borgo, prossimo alla porta che mette sulla via di Palermo, ed aspettavano il segnale della partenza. Quando tutto fu in ordine, comparve dinanzi a loro il generale, cavalcando la men rea bestia cavallina che si fosse trovata in città, e sulla quale s'era messa la bella bardatura, che non so qual signore, brasiliano, argentino, gli aveva donata nei giorni che precedettero la nostra partenza da Genova. Accanto a Garibaldi cavalcava il console inglese, che volle vederci partire e ci salutò più volte dicendo «Addio, bravi giovani, bravi giovani!» Così lasciammo Marsala. Ora è da notarsi come in quella città non restasse vestigio alcuno del nostro passaggio, perché il generale, ben sapendo che, appena partiti noi, ci sarebbero rientrati i napoletani, non solo non vi stabilì governo di sorta, ma volle che si lasciassero intatti persino gli stemmi del Borbone, e nulla si facesse che tornasse poi a danno di quei poveri cittadini, dei quali soltanto 3 o 4, oltre i 14 da noi liberati dalle carceri, chiesero armi e facoltà di seguirci. Quei 14 valentuomini, che a sentir discorrere pareva avessero in corpo il diavolo, fatte appena poche miglia sparirono dalle nostre fila, rubandoci i fucili, ciascun dei quali era per noi più prezioso di un violino di Cremona. Eravamo finalmente in Sicilia, nell'isola celebrata dai poeti leggiadri, che la vollero albergo prediletta ai numi e popolarono di ninfe i suoi boschi e di naiadi le sue fonti. Eravamo nell'isola dei vulcani e delle grandi metropoli del suo tempo antico, nella culla della gentil filosofia e della italica lingua. Ogni suon di campana ci pareva un eco della squilla dei vespri, in ogni fiore cercavamo il profumo d'ambrosia che rivelava le dee, in ogni suono lontano e indistinto un mormorio delle cetre dei trovatori che innamoravano le belle dagli occhi neri alla corte di Federico. Lettori amici, io vi dirò che in quel tempo mi cantavano in cuore 25 anni ed ero tutto poesia. E voi non riderete se io vi giuro che ai miei occhi cercavano per le valli solinghe Giovanni da Procida, pensoso e raccolto nel suo mantello bruno, e che il mio cuore era aperto a tutte le illusioni più vaghe e più fantastiche che mai siano buone ad ammaliare l'animo di un innocente peccatore che sogna. Adesso io misuro da quel che provai in quel giorno ciò che gli altri miei compagni debbono aver provato. E dico che quel cielo ci parve più azzurro del cielo di Toscana e di Lombardia, e i venticelli ci parvero imbalsamati di inebrianti profumi, e il sole ci sembrò più splendido, e più grati ci parvero l'odor dei fiori e il sorriso delle donne, cioè delle rarissime donne che si videro in quel paese di ombrosi e gelosi maschi. Mi parve che le muse siciliane, sicellide smuse, intonassero ai miei orecchi nuovi e armoniosi inni di guerra. Mi sembrava che le loro bianche mani agitassero dinanzi a noi verdi ramoscelli d'alloro. Tutti avevamo nell'anima presagi lietissimi, tutti eravamo innamorati della Sicilia, e ci pareva gran ventura il poter morire per lei. Oh, che non ha vissuto come vivemmo noi in quei giorni d'ansietà, d'entusiasmo, di sant'amore per la patria, non può dire di aver provato quanto sia dolce, quanto sia bella in certi momenti la vita. Eravamo pochi e derelitti su quella spiaggia, ma avevamo tra noi un eroe che recava tra le pieghe della sua bandiera la fortuna d'Italia. Avevamo duce un uomo che aveva scritto sulla lama della sua spada «Vittoria o morte». I nostri amici, i nostri cari non ci dovevano rivedere se non vincitori, o dovevano benedire alla memoria nostra ed onorare nei nostri nomi una gloriosa sventura. Era alto il sole da 3 ore e più quando lasciammo Marsala. Dopo breve tratto si scoperse alla nostra veduta il mare e contemplando le navi borboniche che si avvicinavano sicuramente alla città. Alcuni villani che incontrammo per primi, insieme a un frate aduso e nero e barbuto che cavalcava un somarello, ci chiesero se veramente ci fosse tra noi Garibaldi e noi mostrammo loro chi cercavano. Tosto i più svelti si avvicinarono ad esso e si dettero ad afferrargli le mani per baciarle, ma il nostro duce gli respinse sdegnosamente dicendo «Ecche, baciar le mani a un uomo che mangia e beve, Immagini il lettore il terzo verbo. «Lo vedete a che van ridotti i preti? Lo vedete come va fatta vietti la tirannia?» E spalancando le braccia soggiungeva «Su, baciatemi il volto, se volete!» E li baciava per primo. Aprivano la marcia le guide, comandate da missori, tutte a piedi. In quei primi giorni il piccolo esercito aveva una cavalleria pedestre. Seguiva Mosto, coi carabinieri genovesi, e quindi le compagnie per numero d'ordine, comandate da Bixio, Vincenzo Orsini, Stocco, Lamasa, Anfossi, Carini e Caeroli. Il generale cavalcava or qua, or là, seguito da Sirtori e da Tur e da Cenni. Infaticabile nel recare i suoi ordini e nel regolar la marcia della colonna. Venivano in coda i nostri 4 cannoni, ruzzolanti sulle ruote mezze rotte dei vecchi affusti da posizione, guasti dalle intemperie e dagli anni. Quindi i carri con le munizioni e i fucili e le altre povere salmerie, cui erano scorta i marinai. Il vecchio e canuto Ripari aveva seco 3 o 4 medici. La Cervi guidava 4 futuri intendenti e commissari ordinatori. Sponzilli conduceva i futuri capi del genio militare. Pochi antichi artiglieri andavano con le artiglierie. «Ecco», diceva Garibaldi, contemplando con gioia quella scarsa brigata, «tra pochi giorni ogni compagnia sarà battaglione e poi reggimento». Nell'udire quelle parole mi s'aprivi il cuore, ma i miei occhi cercavano indarno gli innumerevoli insorti di cui era corsa fama che formicolassero le campagne siciliane. E, tratto tratto, nell'essere in testa alla colonna, mentre salivamo qualche pendio, mi volgeva a guardare e, fermando lo sguardo sul breve spazio occupato dalla nostra gente, dicevo tra me: «O che direbbero mai certi nostri buoni amici che fumano adesso e sbevazzano in santa pace per i caffè di Torino e di Firenze se vedessero con qual poderoso esercito muove Garibaldi a rovesciare un regno?» E, per vero, non mancò in quei giorni chi ci chiamasse matti e tizzoni d'inferno e censurasse il generale come uomo irrequieto e pronto sempre a metter legna sul fuoco e a crear sopraccapi al governo. E ci fu purtroppo chi s'augurò che con quella quintessenza di chiassaiuoli rivoluzionari e di furibondi arruffoni sparisse felicemente e per non tornar mai più ogni germe di future perturbazioni e di guai. Garibaldi, vedendo piene le tolde dei 2 vapori, aveva esclamato nella rada di Genova: quanta gente!» Ripensando a quel benaugurato motto, io mi consolavo nel profondo del cuore, ma la consolazione veniva intorbidita subito da un tristissimo dubbio. Non aveva consentito il generale a farsi capo della spedizione per la certezza che gli guarentirono che troverebbe l'isola in fiamme? Non poteva darsi che i 1000, i quali gli sembravano troppi allora, sembrassero adesso a lui stesso troppo scarsi? Non volevo mostrarmi scoraggiato né uomo di poca fede, ma mi premeva di chiarire qual fosse l'impressione suscitata nell'animo di Garibaldi dalle prime accoglienze che ci avevano fatti i siciliani. E così, avvicinatomi a lui con un pretesto, gli dissi: «Oh, dove sono, generale, quei magni insorti che promettevano Roma e Toma? Mi pare che la gente ci guardi e passi ed abbia una voglia matta di starsene allegramente a vedere quel che accadrà. Il generale rispose con la sua inalterabile tranquillità: pazienza, pazienza, vedrete che tutto andrà bene. Perché la gente si scuote e ci venga dietro, bisogna farle vedere che sappiamo picchiare. Il mondo è amico dei coraggiosi e dei fortunati. Tornando ad avvicinarci sulla strada maestra, udimmo un gran baccano di voci, e tra quelle altissima fin sopra i righi la voce di Nino Bixio. Che cos'era? Che cosa non era? I volontari, oppressi da quel caldo africano, stavano benissimo accoccolati all'ombra. E qual di loro aveva cominciato ad appisolarsi? Quale s'asciugava il sudore? E quale si sentiva tutt'altra voglia che quella di tornar così presto sotto i raggi del sole ardente? Insomma, non c'era verso di farli sbucar fuori e ripigliar la marcia per quanto i capitani e gli altri ufficiali si spolmonassero a persuaderli. Garibaldi, che era fermo a qualche distanza in un campo, non s'era accorto che il suo ordine di andare innanzi trovava oppositori inesorabili, i quali avrebbero voluto prolungare la sosta e nessuno lo chiamò. Ma Nino Bixio e Sirtori, veduto che le raccomandazioni non bastavano, si dettero ad alzar la voce, ed anzi il primo, secondo il suo solito, cominciava a far saltellare il cavallo vicino a Halli dei Dormiglioni e degli Ostinati e minacciava botte bianche e botte nere, quando improvviso comparve sulla strada il generale e gridò con voce sonora: «Avanti, ragazzi, non c'è tempo da perdere!» A queste parole tutti mille saltarono su come un uomo solo, e ricomposero le file, e ripigliarono la faticosa marcia e il lieto ritornello i cui versi dicean: «Daghel avanti un passo, delizia del mio cuore, bravo bimbo, bravo, tradelallera, tradelallera, lallelallera, lallelallà», al quale una quarantina di voci toscane intrecciava allegramente il ritornello livornese, mentre Bixio, bestemmiando in tutti i dialetti d'Italia, tornava di galoppo in testa alla sua compagnia. Si camminò un'altra mezz'ora in silenzio, quando, a una svolta della strada, vedemmo in lontananza diversi uomini a cavallo comparire in cima ad una collinetta. Garibaldi fece fermare la colonna e si volse chiamandomi. «Comandi!» risposi. «Prendete con voi questi sei carabinieri genovesi!» e li accennò col dito. «E andate a vedere che razza di gente è quella che si vede lassù in capo alla collina. V'aspetto qui!» Ma avviavo, flagellando coi tacchi delle scarpe i duri fianchi della mia cavalcatura, quando ei mi chiamò indietro per dirmi: «Avete un binocolo?» «No, generale, c'è nessuno che abbia un binocolo da dare a bandi!» «Io!» rispose un bello metto che era appunto il signor Calvino, e mi porse un binocolo. Dopo aver fatto un po' di strada, conversando sempre coi sei genovesi, il binocolo del signor Calvino mi mostrò ben chiari i signori sconosciuti che ci venivano incontro, i quali erano 7 o 8, tutti a cavallo, con le papaline in testa e con gli schioppi attraverso alla sella, come tanti beduini. Affrettai con buone ed efficaci persuasioni il passo del ronzino ed agitai per aria il berretto. Gli sconosciuti misero al trotto i cavalli ed, agitando a loro volta le papaline, cominciarono a gridare. Capii a volo che erano amici e venivano dalla parte di Dio, ma se tali non erano? La prudenza più volgare mi consigliava starmene in guardia e chiesi ai carabinieri se avessero ben cariche le loro armi e dissi loro: «Fermatevi e state attenti». Quindi, flagellato anche una volta il mio sciagurato ronzino, posi mano al revolver e mi spinsi innanzi. Gli sconosciuti si fermarono anch'essi, ed uno di loro, che mi parve il Caporione, scese subito da cavallo e mi si fece incontro gridando: «Viva l'Italia! Viva Garibaldi!» Era uno dei baroni Sant'Anna di Alcamo, patriota ardentissimo e grande odiatore dei Borboni. Ci stringemmo la mano e lo invitai a far venire innanzi i compagni, che, ad un suo cenno, accorsero di galoppo e mi furono intorno, assordandomi con le loro grida di «Viva Sicilia! Viva la taglia! Viva Sicilia! Viva l'Italia!» Finalmente si vedevano gli insorti. Erano compagni di Rosalino Pilo, che dalle montagne avevano udito il rumore dei cannoni della squadra borbonica e, mandati esploratori verso Marsala, avevano avuto notizia del nostro sbarco. Condussi il barone e i suoi arabi dal generale, che li accolse con gran segni d'affetto e si ristrinse con essi a Parlamento insieme a Sirtori e a Tur. Quando Garibaldi ebbe saputo ciò che gli premeva sapere, trasse la sua colonna fuori della strada maestra e l'avviò per un sentiero che scendeva con lunghi giri in una valle verdeggiante, in fondo alla quale sorgeva un colle piuttosto alto, sormontato da un edificio molto simile a un castellaccio antico. Avendomi il generale ordinato d'andare innanzi coi miei esploratori, ai quali aggiunse uno degli uomini del barone Sant'Anna, precedei di buon passo la colonna, interrogando con infinita curiosità il mio nuovo compagno, dal quale seppi come la rivoluzione fosse stata doma per tutta l'isola, e Pilo e Corrao errassero su per i monti con pochissima gente. Quando ebbi saputo da lui ciò che mi premeva sapere, ei cominciò ad interrogarmi, dimandandomi se Garibaldi era proprio Garibaldi, e se dietro Garibaldi c'era un re, e se dietro a quel re c'era una buona cassa. A cui risposi: fratello, Garibaldi è Garibaldi in carne e in ossa. Dopo Garibaldi verrà, se occorre, anche un re, ma la cassa che tu cerchi non ce l'abbiamo. L'arabo si turbò e mi disse: la cassa c'è a Palermo. Bravo, risposi. E quella cassa la piglieremo noi e staremo allegri come tanti papi, però non dimenticarti che le casse sono sempre difese molto bene e ci sarà mestieri combattere accanitamente se vogliamo giungere a bomba. Mentre così si parlava, ci venne incontro una comitiva di 6 o 7 cavalieri che ci salutarono con alti e viva. Il capo della nuova cavalcata era il signor Mistretta di Salemi, il quale, avuto notizia che ci andavamo appressando al suo feudo, veniva ad incontrare il generale e ad offrirgli tutto quanto per sé e per i suoi gli potesse occorrere. Ordinai a un genovese di condurre al generale il signor Mistretta, insieme col suo corteo. E seguitando la mia strada, giunsi al feudo che, appunto, era il castellaccio da me veduto in distanza nell'abbandonare la via maestra. Mentre questa accadeva, il sole andava tramontando tra un ammasso di nuvoloni che si tingevano nel colore della porpora. L'aria cominciava a raffrescare e un delizioso profumo si levava per la campagna, tutta verde e piena di rigogliose e folte pianticelle di fave. Su quei campi, girando gli occhi, Garibaldi esclamò tutto allegro: «Meno male, con tanti baccelli che ci sono, potrò far la guerra senza bisogno di pensare a viveri». Ciò che parve consolare il generale non consolò punto noi, che non avevamo mangiato nulla in tutta la giornata ed avevamo voglia di miglior cibo che non fosse di baccelli. E tutti ci guardavamo in faccia e ci chiedevamo a vicenda se il generale avesse inteso dir davvero e volesse condannarci a quel cibo da anacoreti dopo tante miglia e dopo tanti sudori. Ma il commissario Bovi, che giunse in quel momento, avvertì il nostro duce d'aver comprato 14 pecore da un pastore che aveva la greggia a pascolo in quelle vicinanze, e poco dopo le 14 vittime passarono belando dinanzi a noi, avviandosi al sacrificio che fu compiuto da non so quali sacerdoti sotto le mura del vecchio castello. Entrando nel feudo, o castello, che voglia dirsi, trovammo Stefano Tur che si era disteso su un lettuccio e premeva sulle labbra un fazzoletto macchiato di sangue. Gli chiesi che cosa avesse e mi rispose che gli accadeva spesso di sputar sangue, ma non era solito farsene né qua né là. Gli toccai la fronte, scottava come un ferro caldo. Volli correre a chiamare un medico, ma egli me lo vietò dicendo: «Questo non è tempo da medici né da medicine». Il brav'uomo non aveva tempo per essere malato, e infatti la mattina di poi era sano e vispo come un galletto. Si passarono, senza cose degne di menzione, le prime ore della mattina. Nessuno sapeva quando ripiglieremmo la marcia e per dove, e se ci fossero nelle vicinanze truppe nemiche da combattere sollecitamente. Non vedendo fare alcun preparativo di partenza, supposi che Garibaldi volesse fermarsi alquanto in quel luogo per raccogliere gente che in gran numero gli si prometteva dalla Masa e dagli altri reduci dall'esilio. Ma verso le 9 i nostri esploratori tornarono in gran fretta, accompagnando certi uomini a cavallo che venivano da Salemi per annunziare a Garibaldi che il generale Landi marciava con una brigata per tagliargli la via di Palermo, mentre altre forze manovravano per terra e per mare col disegno evidentissimo di pigliarlo in mezzo. Fu dato in fretta e furia l'ordine di levare il campo e correre più presto che si potesse a Salemi. Montato che fu a cavallo, il generale ordinò a Bixio che lo seguisse tosto con la sua compagnia e coi carabinieri genovesi e le guide, mentre il resto della gente si raccoglieva e si metteva in ordine. Bisognava camminare 6 lunghe miglia per giungere a Salemi, che siede in vetta a un poggio assai scosceso, e si trattava di giungervi per sentieri aspri e fuori di mano. Il mio cavallo del giorno innanzi era sparito, e non c'era verso ad averne un altro, sicché io pure dovetti raccomandarmi alle gambe, e corsi un bel pezzo per tenermi vicino al generale, che aveva un diavolo per capello, e non pareva dovesse avere quiete finché non fosse giunto in Salemi.